Oggi stasera c'è al Pantheon la commemorazione del presidente Arafat. Io spero di trovare molti amici, molte forze politiche che si sono distinti nel passato nel loro atteggiamento di solidarietà. Come siamo chiamati nei giorni prossimi a moltiplicare queste forme di intervento, di attenzione, nella speranza di riattivare il processo di pace e l'iniziativa diplomatica dei governi. E il dolore che prevale su tutti gli altri sentimenti in questo momento nel popolo palestinese. E l'accaduto è molto grave e l'eredità che lascia è di un certo peso. Come è prevalso anche il senso di responsabilità nell'atteggiamento delle forze politiche e della gente normale che sente il grande vuoto lasciato che andrebbe colmato, sapendo che la storia o la situazione o l'esperienza dell'uomo forte è finita almeno per molti anni. Si andrà verso una situazione dove ci sarà una ripartizione dei poteri che Arafat, il presidente, aveva accumulato in sé, e verso istituzioni che funzionano. E quindi prevedo anche un rilancio del processo di riforme democratiche dell'autorità nazionale palestinesi e un tentativo anche di rafforzare l'unità nazionale in questo momento, in attesa di vedere cosa si apre sul scenario politico internazionale per quanto riguarda la questione palestinese. Sul piano, diciamo, della diplomazia ufficiale dei governi c'è una rinnovata attenzione. Poi in che cosa si tradurrà questa rinnovata attenzione, secondo me dipende molto dall'atteggiamento dell'amministrazione americana, che aveva insieme a Israele durante gli ultimi 3 anni impedito qualsiasi intervento sia delle Nazioni Unite sia dell'Europa in grado di aprire una situazione che diventava sempre più chiusa. Devo dire che non è mancato però un diffuso sentimento di solidarietà di carattere popolare con il popolo palestinese, che si esprimeva in molte forme, dalla manifestazione all'assemblea, al dibattito, ma anche a visite guidate nei territori occupati, testimonianze e sostenere progetti di cooperazione. Quindi ci sono state moltissime forme di solidarietà che noi abbiamo apprezzato molto e che hanno avuto il merito di tenere viva una situazione e un'attenzione verso questa situazione. E adesso forse è giunto il momento per un rilancio di queste iniziative, maggiori coinvolgimenti in modo da poter condizionare o spingere ancora di più l'atteggiamento dei governi, che sicuramente negli ultimi anni non era sufficiente.